qualunque sia, rimango qui, cammino ancora sui passi tuoi. Un attimo fu come se coi tuoi capelli portassi via la vita che è in me, l'amore che è in me, qualunque ragione di sentirmi vivo. Comunque sia, sul mare resta un po' di noi. Fu quando io guardai per tutto il giorno gli occhi tuoi. Solo sole, solo sale, poi solo stelle perse nella notte con noi. Io mi volterò e camminerò pensando a te, ma in me non ti perderò. Anche se non lo sai.